Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi, manco a dirlo, di questa giornata economico-finanziaria. In realtà tratteremo delle elezioni europee per quello che sono state in primo luogo, cioè elezioni europee, quello che potrebbe cambiare nelle politiche economiche dell'Europa dal risultato elettorale, non guardando solo al risultato clamoroso che si è registrato in Italia, ma anche e soprattutto ai nuovi equilibri che vi sono in Europa. È chiaro a tutti infatti che un conto è ragionare di politica interna, di politica nazionale, e quello lo fanno già altri programmi, ma se vogliamo ragionare di politiche economiche che in buona parte sono decise dall'Europa, beh, è meglio guardare quella che è la nuova composizione anche dell'Europarlamento e dei rapporti di forza all'interno dell'Europa stessa. Scusate il colpo di tosse. Vedo già dei messaggi di polemica. Renzi, lo spread. Allora, il dato, parliamo di fatti innanzitutto. Per quello che riguarda la borsa, Milano è la piazza, forse l'unica, che festeggia veramente, più 3,30% l'indice contro Parigi più 0,60, Francoforte più 1, Londra meno 0,07, che poteva fare Londra, invariata. Quindi l'America più 0,40%, e questo è il fronte che riguarda il dato di borsa. Sui titoli vanno molto bene oggi la Popolare Emilia Romagna, che guadagna guadagna l'8,88%, la Pop Milano il 6,70%, UBI Banca il 6,20%, Monte dei Paschi il 5,60%, Banco Popolare il 5,20%, questo per quello che riguarda i bancari. Fortissima anche Telecom Italia più 6,11%, A2A più 5,60%, Finmeccanica più 5%, Mediolanum più 4,70%, Unicredit più 4,5%, Azimut più 4,40%, Iux più 4,30% come Atlantia, il 4,15% lo guadagna Intesa San Paolo, il 4% Mediobanca e anche Snam. Nessuno perde, i titoli che guadagnano meno sono Buzzi Unicem più 0,70%, Tenaris più 1% come Eni, e l'1,30% lo guadagna Exor. Quindi l'euro, leggermente più debole del solito, a 1,36,50, devo dire chi viaggiava a 1,37 nelle ultime settimane, però non si è rafforzato. Il dato sulla borsa di Milano è inequivocabile, cioè gli investitori italiani, ma anche immagino stranieri, premiano quello che è il voto. Ora, per evitare una puntata tutta giocata su SMS polemici, qui non diamo giudizi di fatto, diamo giudizi di valore, diamo giudizi di fatto, per cui la reazione è netta. Per quello che riguarda lo spread, anche se il voto europeo è un voto che premia l'Italia dal punto di vista di chi è interessato a non uscire dall'euro, ma non premia l'Europa. E uno dei temi di questa puntata riguarderà anche Angela Merkel, che ha vinto in Germania ma ha perso, e questo è un giudizio di personale di chi parla, ha perso a livello europeo. Lo spread è sceso a 158 punti, quindi sotto il 3% al 2,98%, e lo spread con la Spagna resta a vantaggio della Spagna di 10 punti a 148 punti base. Comunque 158 è un buon livello dello spread, e comunque lo abbiamo già visto nelle settimane passate. Ora cercheremo di capire, da un lato, che cosa, quello è più facile, che cosa possa portare questo risultato elettorale per le riforme di carattere economico in Italia. Dico che è più facile perché con un mandato, non dico plebiscitario, ma insomma ci siamo vicini, non ci sono più alibi, e lo dice oggi lo stesso Renzi, per non fare le riforme. Dall'altro però il tema europeo resta tutto, e io devo dire una cosa: il giudizio sulle elezioni italiane ognuno ha quello che vuole, giustamente, però sul fronte europeo devo dire che tutto sommato è un elemento positivo. Può sembrare un paradosso, ma no, perché il fatto che il paese più in difficoltà con questa gestione dell'Europa sia a questo punto la Francia, dove, voglio dire, le percentuali sono impressionanti, beh, vuol anche dire, di questo parleremo, che il lavoro sporco, probabilmente, chiamasi lavoro sporco, il fatto di dover andare a Bruxelles e a Berlino a dire così non possiamo continuare, o iniziamo veramente a mettere in atto politiche per la crescita, o veniamo sommersi, beh, dovrà farlo la Francia. E Renzi si trova nell'assolutamente invidiabile posizione di essere il leader più votato e anche più forte, se vogliamo, assieme a Angela Merkel, di un paese che chiede le stesse cose alla Francia, e quindi potrebbe avere anche un ruolo di mediazione, cioè non deve anche fare il lavoro lui in prima persona, perché mi sembra che i problemi più grossi in questo momento ce li abbiano i cugini transalpini. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Scusatemi, ho dato Londra e New York, me lo fate notare, avete ragione, chiaramente sono chiuse Londra, lo 0,07% l'ho riferito a febbraio, abbiate un po' di pena. Oggi c'è il Memorial Day per quello che riguarda Wall Street, Bank Holiday invece a Londra. Abbiamo fatto notte tarda ieri, un po' si sente oggi, più 3,44% Milano. Andiamo avanti con gli altri temi, dicevo, al di là dello spread e della, e di quello che riguarda le varie dichiarazioni oggi. Poi parleremo dei dati complessivi europei, gli ultimi dati a disposizione. Comunque, se il Presidente della Commissione Europea Barroso si dice estremamente preoccupato dal voto, il Presidente dell'Eurogruppo Aaron Dijsselbloem dice adesso bisogna fare le riforme nei paesi del sud, tutti i paesi dell'Eurozona, e anche in Germania, dove alcune riforme sono state rigettate. È inevitabile la modernizzazione dei paesi. Dijsselbloem a noi sembra un po' Forrest Gump, perché parla come se non fosse capito nulla nel fine settimana, o meglio domenica, e continua a parlare di un'Europa, sì, in cui bisogna modernizzare. Io, se fossi in lui, avrei altre priorità. Comunque, Angela Merkel dice deplorevole l'avanzata, è notevole e deplorevole l'avanzata degli euroscettici in Germania, ma la risposta ai delusi è nella crescita, nella competitività e nella occupazione. Alla gente non interessano tanto le modifiche dei trattati, ma cosa porta l'Europa nella loro vita, come il lavoro per i giovani. Allora, intanto diamo un applauso a Angela Merkel, perché ci è arrivata anche lei, nel senso che brava. Ecco, perché insomma la risposta ai delusi è nella crescita, nell'occupazione. Bene, però a mio avviso dire deplorevole, commentare come deplorevole un voto, non è deplorevole, non è sbagliato o giusto, può essere preoccupante per te che sei dall'altra parte, può essere un voto che segnala dei problemi e li segnala come, ma deplorevole è un'azione sbagliata. Ora, un voto non è mai sbagliato, è sempre giusto in democrazia un voto, qualunque sia il voto, cara Angela Merkel. Cioè, insomma, è interessante che la definisca deplorevole, non so, deplorevole cosa? Il voto del Front Nazionale al 25% o di Syriza, e quindi gli ellenici, i greci che non vogliono stare in Europa al 26,5%, non è deplorevole, può essere, non è sbagliato, può essere un voto che segnala un grosso problema. Infine, quando dice alla gente non interessano tanto le modifiche dei trattati, ma cosa porta l'Europa nella loro vita, sì, però parliamoci chiaro, se le modifiche nei trattati portano più occupazione e più crescita, alla gente interessano anche le modifiche dei trattati. Non ci pigliamo in giro, cara Angela Merkel. È chiaro che con questi trattati le politiche per la crescita e per l'occupazione non si riescono a fare, finché ragioniamo come dei ragionieri, senza alcuna offesa per i ragionieri, e non sulla crescita, no? Poi aggiunge Angela Merkel: serve un confronto intenso sul pacchetto delle nomine europee. In realtà, a mio avviso, qualcuno in Germania stanotte ha dormito male, ieri notte ha dormito male, perché il voto francese fa perdere alla Germania l'unico alleato che era rimasto, a meno che non vogliamo dire che paesi minori siano alleati di peso, con tutto il rispetto. Per cui ora la Germania è sempre più sola in Europa, nell'Europa dei grandi, dei paesi che hanno un grosso peso. La Francia ha fatto la riunione di crisi all'Eliseo e vabbè. Cameron ha detto agli elettori, quindi la Gran Bretagna, sono profondamente delusi dall'Unione Europea, e loro non sono neanche nell'euro e nei vincoli che abbiamo noi. Farage, Nigel Farage, leader dell'euroscettico UKIP, che ha ottenuto un buon risultato in Gran Bretagna, primo partito col 28%, il Labour al 25,7%. Dicevo, Farage ha detto: ora siamo pronti a divorziare dall'Unione Europea, l'esercito della gente marcerà adesso verso Westminster. Ma il leader del Partito Liberale Democratico, Nick Clegg, ha detto: no, non mi dimetto, non dobbiamo cedere adesso. Certo che il risultato dei liberali è da minimo, da prefisso telefonico, al 7%. C'è qualcuno che dice: lei oggi è triste perché... non sono triste, ho detto anzi che c'è... non mi è morto il gatto, nel senso che non ho il gatto. Non sono triste, non do giudizi sulla politica italiana perché ognuno la pensi come vuole. Sono contento, lo ribadisco ancora una volta, perché a questo punto il problema di un'altra Europa, non dell'uscita dall'euro, ma di un'altra Europa, non è più solo un problema della cintura dell'olio d'oliva, cioè italiano, spagnolo, portoghese, greco, è anche un problema francese. La Germania ha un grosso problema in più, ecco perché sono contento. In Grecia Tsipras punta al voto anticipato, del resto ha preso il 26,5% dei voti contro il 22,7% del partito di governo Nea Dimokratia del centrodestra, e oggi è stato ricevuto dal presidente ellenico Papoulias. Per quello che riguarda invece il futuro di chi guiderà l'Europa, Martin Schulz si è congratulato con l'avversario Jean-Claude Juncker, e ancora ha detto Juncker, che è leader dei popolari: il PPE ha chiaramente vinto, ho parlato sia con Merkel che con Schulz. Il nostro Sergio Nava ha intervistato, che è a Bruxelles, Jean-Claude Juncker, chiedendogli se, qualora lui diventasse presidente della Commissione Europea, ci sarebbero contrasti con la linea politica del PD di Matteo Renzi nel corso del semestre europeo a guida italiana. Sentiamo la risposta di Juncker. Abbiamo da un lato il bisogno di consolidare le nostre politiche di bilancio e dall'altro quello di sviluppare politiche per la crescita e l'occupazione. Non c'è contraddizione. Ho il massimo rispetto per Matteo Renzi. Lui ha già reso chiaro che rispetterà gli impegni presi dall'Italia con l'Europa. Non vedo problemi. Se un governo vuole cambiare le regole in Europa, dovremo avere un cambio di trattato che richiede unanimità. Non sono ancora presidente della Commissione europea. Se lo diventerò, discuterò di tutto questo con la presidenza italiana. Allora, ragioniamo di Italia, ma anche e soprattutto in questo programma di Europa, visto che poi avremo lo speciale dalle 18 alle 19 sulle amministrative. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Guido, buonasera. Buonasera a voi. Grazie al corrispondente da Francoforte del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Alessandro, anche a te, buonasera. Buonasera. E al direttore del Center for European Policy Studies, Daniel Gross. Buonasera anche a lei, dottor Gross. Buonasera. Vorrei partire proprio dal direttore Gross, perché noi adesso stiamo ragionando sugli equilibri interni, insomma la vittoria di Renzi è stata oltre ogni previsione possibile, però vorrei partire da questo tema. In realtà Renzi ha un doppio vantaggio, perché lui vince in Italia, ma non deve più fare il lavoro sporco, cioè essere lui la testa di ponte di chi vuole riformare l'Europa, perché il problema adesso ce l'ha la Francia. sull'altro versante, l'altro leader che ha vinto, mi riferisco di quelli che erano in carica, mi riferisco a Angela Merkel. Angela Merkel vince in Germania ma perde in Europa. È d'accordo, Gross? Angela Merkel non vince in Germania, perde leggermente, o perdono i suoi alleati. Per Renzi sono d'accordo che lui ha visto al vantaggio che gli altri hanno fatto il lavoro difficile dell'aggiustamento fiscale prima, ma non penso che lui abbia un alleato per cambiare l'Europa, perché la Francia è più, come dire, non è soddisfatta con se stessa, e quello che vorrebbe il Fondo Nazionale dell'Europa non è tanto l'austerità, ma è piuttosto sul versante immigrazione e trattato di Schengen. Sì, no, ma immaginando che l'interlocutore di Renzi debba essere Hollande più che la Le Pen, non è adesso, voglio dire, Hollande, a parte fare i gabinetti di crisi all'Eliseo, dovranno porsi il problema di come andranno le prossime elezioni politiche, perché se continuano così non sono solo i socialisti francesi a essere ridotti a una percentuale bassissima, ma la preoccupazione l'abbiamo vista anche in varie dichiarazioni dall'UMP, quindi del partito di Sarkozy, che è al 20,8%, cioè 4 punti di distanza dal Front National. Lei non pensa, Gross, che questo vorrà dire che, cioè, l'Italia, per carità, la Spagna, ma a questo punto il problema di un'Europa che punti più alla crescita se lo deve porre in primo luogo Parigi, da un punto di vista anche politico? Questo è giusto, ma la domanda è sempre come ci si arriva alla crescita, spendendo di più? Non penso che poi il Front Nazionale può anticipare quello che sta dietro al Front Nazionale, l'insoddisfazione dei francesi. Non è tanto indirizzato all'austerità, ma è piuttosto un malaise generalizzato che vogliono che sia la Francia a poter decidere più o meno tutto da solo. Non è questo che vuole Renzi, lui vorrebbe sì una politica economica integrata in Europa, ma nella direzione che vorrebbe lui. Allora, su questo Alessandro Merli, che vede dalla prospettiva di Francoforte, sia il fatto che Angela Merkel ha vinto in Germania, ha ragione Grossa a dire che insomma non ha vinto in maniera netta, ma ha perso in Europa, sia il fatto che a questo punto a livello europeo il lavoro, diciamo, di un'altra Europa dovrà farlo più Hollande, e Renzi ha il vantaggio di avere un'investitura pazzesca dal punto di vista italiano, e alcuni dicono potrebbe quasi porsi, non dico come mediatore, ma insomma come elemento di forza, e per un accordo che veda appunto Germania, Italia e Francia arrivare a un accordo. Ma come sempre, forse in Italia tendiamo a sopravvalutare il peso che poi l'Italia è in grado di esercitare in Europa. Intanto bisogna vedere quale sarà, anche dopo questa vittoria di Renzi, la stabilità che avremo in Italia. Per quanto riguarda la signora Merkel, sicuramente ha dalla sua il fatto che tutto sommato i partiti pro-euro in Germania hanno comunque portato a casa circa i 2/3 dei voti. È vero che si è dato molta enfasi al voto degli euroscettici di Alternativa per la Germania, che hanno preso circa il 7% e porteranno 6 o 7 deputati al Parlamento europeo, però indubbiamente la grande coalizione è abbastanza compatta su una idea pro-euro, però è un'idea pro-euro alla tedesca, nel senso che non c'è molta differenza fra la signora Merkel, i democristiani e i socialdemocratici per quello che riguarda alcuni elementi base che sono la disciplina fiscale, insomma tutte le cose che sappiamo delle basi tedesche dell'Europa. Non so fino a che punto le elezioni europee smuoveranno la signora Merkel da queste convinzioni, se non per qualche aggiustamento tattico che lei è sempre brava a fare, ma senza poi spostarsi molto sulle questioni di fondo. Allora, vi sento sia Daniel Gross che Alessandro Merli molto molto prudenti, per non dire scettici, sul fatto che questo voto poi possa cambiare la posizione tedesca. Io mi riferivo anche più alla pressione franco-italiana. Prima di sentire anche l'opinione di Guido Gentili, vorrei far ascoltare un passaggio della conferenza stampa di oggi di Matteo Renzi, proprio dedicato ai temi dei patti europei, flessibilità di bilancio e della terza via tra populisti e restauratori. La flessibilità del bilancio, noi non abbiamo un problema di flessibilità del bilancio, noi abbiamo un problema di un'Europa che si occupi di salvare non solo gli stati, ma di salvare le famiglie e le persone. Quindi non chiediamo di cambiare le regole o di renderle più aderenti alle nostre aspettative, chiediamo di cambiare l'impostazione dell'Europa. Questo è il punto centrale. Chiediamo di cambiare l'approccio che l'Europa ha avuto in questi anni. E lo facciamo partendo da un'esperienza istituzionale, cioè non dall'antipolitico o dal populismo. Credo che le prossime ore e le prossime settimane renderanno molto chiaro che cosa pensa l'Italia su questo. Perché a mio giudizio tutte le discussioni sul rinnovo dei vertici dovranno essere impostate non soltanto su un dibattito sui nomi, tu prendi questo commissario, io prendo quest'altro, ma su che cosa vogliamo far fare al Parlamento europeo, alla Commissione europea, al Consiglio, all'Eurogruppo, alla politica estera dell'Europa. Il quadro europeo è un quadro nel quale è difficile tenere insieme diversi populismi. La Lega, che qua ha ottenuto un buon risultato, ha già da ieri annunciato, se ho visto bene, che nella giornata di domani o dopodomani, adesso non ricordo che cosa ha detto il segretario Salvini, si vedrà con altri esponenti, diciamo, anti-euro, mettiamolo no euro. Dove staranno gli eurodeputati 5 Stelle? Dialogheranno con Marine Le Pen? Dialogheranno con Salvini in Italia? Non lo so, non so valutare. So che noi abbiamo la possibilità di trovare la terza via tra i populisti e i restauratori. Get lucky, cioè, Daft Punk è inutile, più fortunato di così, fortunato no, onore al merito, ci mancherebbe, ma insomma una situazione migliore di così Renzi non la poteva immaginare. Guido Gentili, però nel passaggio che abbiamo appena ascoltato c'è qualche elemento in realtà che a mio avviso andrebbe sottolineato, e cioè quando Renzi dice chiediamo non di cambiare le regole, i limiti di bilancio, ma l'impostazione, e poi avvisa vi accorgerete presto di quello che sarà il semestre italiano e i voti che dovremo dare, faccio notare che tra i socialisti Renzi porta, è il primo partito, quello, il PD, tra i socialisti europei, tra i nomi a noi interessa che cosa vanno a fare, quindi attenzione che potremmo anche iniziare una trattativa sui singoli nomi, bloccare tutto. Beh, io non sarei così sicuro che proprio diciamo, l'Europa possa restare abbastanza immutata. Ma io innanzitutto vorrei bene capire che cosa significa questa terza via, che è una formula che ogni tanto ricorre nel lessico politico ed economico, ma che poi non si riesce mai bene a spiegare, perché quando Renzi parla di che non vuole cambiare le regole del gioco, ma l'approccio, io attendo, diciamo, con curiosità qualche dettaglio in più. Sì, un po', un po' fumoso lo è, diciamo. Che vuol dire? Quindi voglio dire, ecco, se poi vado a leggere o a rileggere, o meglio, il suo programma che presentò in occasione delle primarie del PD, che è l'Italia cambia verso, c'è un capitolo che riguarda anche l'Europa, i cambiamenti in Europa, e lì c'era scritto ad esempio che era anacronistico il tetto al deficit del 3%, e poi successivamente lui ha avuto modo di chiarire che l'Italia vuole rimanere dentro questo tetto, non si tratta di questo. Ecco, appunto, quindi di che cosa si tratta? Cambiare, non vuole cambiare le regole, vuole cambiare l'approccio, questo significa una trattativa ad esempio su quello che si prospetta da qui in avanti, dall'anno prossimo, cioè il fiscal compact, significa intavolare una discussione su questo punto, mi domando. Diciamo, è possibile, sta di fatto che lui ha vinto certamente in Italia a mani basse, un risultato straordinario, storico, sappiamo tutto, ha vinto anche in Europa, nel senso che, come ricordavi tu, il PD è il partito più forte dello schieramento tra socialdemocratico in tutto il continente. Detto questo, diciamo, l'Europa è un campo di battaglia, perché voglio dire, le varie formazioni, diciamo, quando ci sono paesi come l'Inghilterra e la Francia dove hanno dei risultati veramente non attesi fino a questo punto, cioè certamente straordinari, le formazioni euroscettiche, beh, insomma, in paesi come l'Inghilterra e la Francia, quindi è tutto da costruire e la partita non mi sembra facile. Allora, il conduttore definito da un ascoltatore che sta godendo in quanto radical chic, guardi, io non sono radical chic, casomai più radical che chic, però il conduttore prende atto che i suoi tre ospiti, diciamo, sono molto freddi sull'ipotesi che lui ventilava, cioè che potesse essere a questo punto un lavoro sporco da fare da parte della Francia, con pressioni più forti sulla Germania, e un Renzi che si trova nell'invidiabile posizione di essere plebiscitario in Italia e però non dover essere lui solo a portare i temi di rinnovamento europeo a Bruxelles, anzi poter giocare questo ruolo del grande consenso istituzionale che ha avuto, anche perché lo diceva in quel passaggio, diceva insomma no, io sono l'unico, traduco, che ha avuto un voto così forte da un punto di vista istituzionale, cioè da Presidente del Consiglio. Angela Merkel non ha avuto assolutamente neanche lontanamente un tale successo. Dopo il meteo e la pubblicità, allora chiederò ai tre ospiti che cosa ritenete possa cambiare realisticamente dal vostro punto di vista in Europa, perché a mio avviso non si può nemmeno dire che con questo tsunami nel resto d'Europa è risultato completamente inatteso in Italia, che è l'unico paese che va a premiare il governo in carica, beh, a mio avviso qualcosa però possiamo anche immaginare che cambi. La risposta dopo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Renzi ha vinto, di colpo sono spariti disoccupazione, cassa integrazione, calo del PIL, crollo dei consumi. No, non abbiamo mai detto questo. C'era già Malaparte che scriveva in tempi non sospetti: sorge il sole, canta il gallo, Mussolini monta a cavallo. Nessuno sta osannando Renzi. Però la domanda c'è tutta, vorrei ripartire da Daniel Gross. Allora, ditemi che cosa secondo voi potrebbe cambiare, oppure ritenete che siano tormenti e mal di pancia solo interni che non avranno ripercussioni in Europa. Gross. La realtà è che è molto difficile cambiare l'Europa. Si può cambiare qualcosa nella politica di austerità al margine, ma anche questo non è deciso tanto dai capi di Stato, ma dalla Commissione, e in particolare dal commissario di Economia e Finanze. Uh-huh. Perché sotto il nuovo pacchetto lui può fare delle proposte che sono accettate se non si trova una maggioranza qualificata contro le sue proposte. Questo sarà molto difficile. Per cui non è tanto la vittoria di Renzi che cambia questo, che magari la personalità del nuovo commissario, l'impostazione che prenderà, ma tutto questo si vedrà non adesso subito, verso la fine dell'anno. Sì, no, Gross, io non parlavo della vittoria di Renzi, parlavo più del crollo dei gollisti e dei socialisti in Francia, della vittoria di Tsipras in Grecia e anche quello che è successo in Spagna con la Catalogna, di Nigel Farage in Gran Bretagna. Cioè, diciamo, non volevo parlare solo di Renzi, era solo per precisare, cioè che le pressioni potrebbero arrivare non solo dall'Italia, no? È chiaro, ma penso che in Grecia la vittoria di Tsipras è stata molto contenuta, per cui non ci sono elezioni lì. In Francia, come ho detto, non è tanto il problema dell'austerità, ma è che i francesi considerano che nessuno gli dovrebbe poter dire quello che fanno. E se si parte da questo punto di vista, si può anche uscire dall'euro subito. Allora, Alessandro Melli, anche per te la stessa domanda. Alessandro, cioè, allora, sì. se non ritenete corretta la mia ipotesi che appunto Renzi ha un doppio vantaggio, perché il lavoro sporco dovrà fare la Francia e lui è anche l'unico Presidente del Consiglio ad aver avuto un tale plebiscito a suo favore, che cosa pensate cambierà in Europa? Ma visto dalla Germania non vedo perché la signora Merkel dovrebbe cambiare una linea che per lei ha sempre pagato politicamente ed elettoralmente. Qualche elettore forse è andato in libera uscita, ma sono soprattutto i bavaresi in queste elezioni, dove il prezzo politico da pagare anche per una protesta è abbastanza basso. Però devo dire che sostanzialmente non c'è nessuna ragione per la signora Merkel di rivedere quello che è non solo la sua forma mentis, dei piccoli passi della prudenza, ma anche una linea che è molto in sintonia con il modo di pensare e di vedere dell'elettorato tedesco. Quindi è quello il suo punto di riferimento, come del resto quello di tutti i politici. Il punto di riferimento è l'elettorato nazionale. Non credo che la signora Merkel farà dei passi per compiacere questo o quest'altro governante, certo, europeo, più o meno supportato dal consenso popolare. È vero che la signora Merkel capisce il linguaggio, diciamo, del potere delle urne, quindi mentre nonostante potesse avere qualche simpatia, diciamo, per i Monti e per i Letta, che forse la pensavano più come lei, vabbè, capisce che viceversa Renzi ha dietro di sé a questo momento, diciamo, non lo aveva fino a ieri, essendo stato scelto da una primaria e non dal voto popolare, adesso ha dietro di sé una forza, diciamo, di voti che nella testa della signora Merkel conta, essendo un politico puro, quindi ne terrà conto nelle discussioni e nei rapporti di forza europeo. Il discorso però, come sempre, è che l'Italia è in una posizione debole in Europa. Credo anche dipenderà molto da come l'Italia condurrà il semestre europeo. A mio avviso, ma la mia opinione, vi state dimenticando della variabile francese. Mi chiedono alcuni perché non avete corrispondente alla Francia, perché la Francia è un tale casino, scusatemi il termine, oggi, che domani con Moussané cercheremo anche di fare il punto vista la riunione dell'Eliseo. Comunque, Guido Gentili, ammettiamo che abbiate ragione, cioè non cambierà granché. Secondo te Renzi, dopo quello che è successo, va a farsi, perché è chiaro che la partita la gioca riformando la pubblica amministrazione, rompendo appunto, continuando con questo rapporto col sindacato, dicendo sì, vi ascoltiamo ma poi decidiamo noi, continuando con le riforme interne, ma anche dimostrando che si cambiano le regole europee, quantomeno sul versante della crescita. Secondo te Renzi a quel punto perde l'occasione del semestre europeo e regala voti a chi dice tanto questa Europa non è riformabile dall'interno? No, assolutamente. Renzi cercherà di portare a casa dei risultati proprio grazie al semestre europeo, alla guida italiana del semestre europeo. Io non dico che l'Europa non cambierà. Qualche cambiamento ci sarà nei tempi e nei modi dovuti, perché non possiamo immaginare che nemmeno la Francia, nonostante lo shock dimostrato ieri, cambi improvvisamente rotta e si metta, diciamo, a fare una guerriglia con la Germania, ad esempio. Quindi, diciamo, occorre del tempo, occorre il confronto. Io credo che qualche risultato ci sarà. Penso che, ad esempio, sul terreno del fiscal compact ci sarà, in qualche modo si raggiungerà un'intesa per un approccio, e qui rivengo, diciamo, a una parola che ha usato Renzi, più morbido sul tema. Penso che qualche problema lo risolverà all'Europa politica, forse la Banca Centrale Europea, sì, che si sta preparando, diciamo, a qualche iniziativa innovativa dal suo punto di vista. Credo, come è successo altre volte, anche con l'accordo sostanziale della Germania su questo punto, quindi qualche cambiamento lo vedremo. Non aspettiamoci però, ecco, un'inversione a U su tutti i fronti e soluzioni miracolistiche in qua o in là, in questo o in quel paese, perché non è questo il contesto. Ci avviciniamo a un negoziato, a una trattativa che è molto complessa e riguarda anche le nomine nella governance europea, e quindi, insomma, ecco, attrezziamoci a un lavoro complesso e lungo. Grazie a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, grazie ad Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, e grazie al direttore del Center for European Policy Studies, Daniel Gross, in collegamento con noi da Bruxelles. Adesso il traffico e poi, nei pochi minuti che rimangono, prima dello speciale delle 18, la borsa. Il caso francese, ripeto a chi ce lo scrive, sarà un caso che affronteremo, diciamo, a sé, perché la situazione è veramente veramente diversa, non può essere accomunata, diciamo, a una così iniziativa e analisi di carattere solo europeo. Traffico. Focus Economia. Sì, è bene che gli ospiti non siano d'accordo con me, io resto della mia idea, ma l'ho detto proprio in diretta, che a mio avviso sì, è vero, l'Europa si cambia con calma, non ha questi tempi, però attenzione, perché poi qui parliamo sempre dell'Italia, vorrei vedere come sta in questo momento un politico tradizionale in Francia, in Grecia, anche in Spagna, in Gran Bretagna, dove i liberal sono ai minimi storici, cioè insomma, sembra un po' ottimico. Poi l'Europa, sai, teoricamente l'Europa si cambia con calma, poi con questi smottamenti bisogna vedere, perché non so, poi ci saranno anche le politiche in questi paesi prima o poi. C'è un unico modo per aumentare il consenso di chi ha sorpreso tutti ed è continuare con questa Europa. Allora, chi dice il voto può essere deplorevole? No, il voto, ripeto, non è mai deplorevole, ha sbagliato anche la Merkel. Il voto non è mai giusto o sbagliato, è un voto che condividi o non condividi, ma il voto è sempre giusto in democrazia. Casomai possiamo dire che è sbagliato non votare, anche se anche quello è un diritto. Ma non si può dire che un voto è deplorevole, anche se uno la pensa così sul voto degli ultimi 20 anni. Ma chi, no, il voto è sempre giusto. La borsa chiuse Wall Street, Memorial Day e Londra, Parigi più 0,70, Francoforte più 1,30, la vera notizia la fa però Milano, più 3,60%, oggi veramente non c'è nulla da commentare, adesso vi do i titoli, se non su Telecom Italia più 6,45%, Generali ha fatto capire che uscirà dal patto di Telco a giugno, e A2A più 5,60 che recupera dopo le nomine. Lo spread a 158 punti ha fatto salire tutti i titoli, Pop Emilia Romagna più 9,22, Pop Milano più 7, Ubibanca più 6,80, Banco Popolare più 6, Monte dei Paschi più 5,80 e poi anche Finmeccanica più 5,50, Mediolanum più 5, Unicredit più 4,80, Azimut più 4,70, Autogrill più 4,40, IUX pure, Snam più 4,30, Intesa più 4,20, Atlantia più 4,16, Mediobanca più 4 come Prismian e Generali. Da Sebastiano Barisoni, euro a quota 1,3651, quindi in indebolimento relativo, leggero. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, c'è il nostro GR. Radio 24, la passione si sente.